Conti fatti, la storia e la memoria dell'economia di Dino Pesole. Questa sera, cari ascoltatori, torniamo a parlare di Europa e lo facciamo partendo da una questione chiave che ci viene sollecitata da un interessante libro appena pubblicato da Donzelli dal titolo Calendario civile europeo, i nodi storici di una costruzione difficile. Libro curato da Angelo Bolaffi e Guido Krains. Bene, l'assunto principale del volume è che le cause profonde della crisi in cui si dibatte l'Europa siano certamente politiche, economiche, ma non solo, sono anche di tipo culturale. Una sorta di declino culturale che ben oltre la Brexit rischia di provocare un sentimento pericoloso, quello della rassegnazione. Il volume è frutto di un lavoro collettivo, affidato a diversi studiosi, seguendo un criterio cronologico che parte dalla Dichiarazione dei diritti dell'uomo del 1789 all'attentato di Sarajevo, che nel giugno del 1914 diede inizio al primo conflitto mondiale, per poi affrontare tutte le principali tappe che nel corso del Novecento hanno condotto al disfacimento dell'Europa e poi, dopo la Seconda Guerra Mondiale, alla faticosa costruzione di quella che potremmo definire la Casa Comune Europea. Per finire con il referendum sulla Brexit del 2016, il tentato colpo di Stato in Turchia, l'elezione di Donald Trump e il referendum indipendentista in Catalogna del 2017. Ne parliamo questa sera con uno dei due curatori, lo storico Guido Krains. Buonasera professore, benvenuto. Buonasera a voi. Ecco quanto i due curatori scrivono nel presentare il volume con questo invito rivolto agli autori dei singoli saggi. Affrontiamo di petto la questione, ragioniamo dei nodi della storia d'Europa. Le inadeguatezze e inerzie della cultura sono di lungo periodo e sono divenute ancor più evidenti dopo l'allargamento dell'Unione Europea a quella parte dell'Occidente a lungo sequestrata dal comunismo sovietico, per dirla con Milan Kundera. Quell'ampliamento avrebbe dovuto imporre un radicale salto di qualità nella circolazione e nel confronto culturale, ma esso non è stato neppure tentato, senza dimenticare la perdurante e forse accresciuta ignoranza reciproca negli stessi paesi di più antica appartenenza alla comunità europea. Anche per questo, forse, di fronte a processi di dissoluzione che appaiono talora quasi inarrestabili, ben oltre la Brexit, rischia oggi di prevalere una rassegnazione impotente, un'abdicazione comunque grave, ancor più grave per quel che ci riguarda, perché alcuni nodi culturali di questa crisi chiamano in causa anche il nostro lavoro di studiosi. Chiamano in causa, cioè, la nostra capacità di far avanzare una riflessione complessiva sui nodi storici di una costruzione difficile, per citare direttamente il sottotitolo del progetto. Una riflessione capace di offrire alle differenti narrazioni e memorie nazionali punti di riferimento che possano favorire confronti e dialoghi fra storiografie e culture. Allora, professor Krains, ci racconti intanto come nasce l'idea di questo calendario civile europeo, che è molto originale, devo dire, come scelta. Sì, nasce dalla consapevolezza che è totalmente da costruire. È totalmente da costruire la convergenza con alcuni nodi, non naturalmente sulle visioni, non ci può essere un'unanimità di visioni neanche all'interno di un singolo paese. La casa editrice Donzelli aveva appena pubblicato, 2-3 anni fa, un calendario civile relativo all'Italia, dove le date erano in realtà consolidate, 25 aprile, 1 maggio, cioè si rifacevano in particolare non solo alla tradizione nazionale, ma anche alla tradizione popolare della nazione, democratica e civile, laica, insomma, sostanzialmente. E ragionando con Carmine Donzelli e Angelo Bolaffi, insomma, ci divenne evidente che lì poteva esserci lo sbocco di una discussione che avevamo da tempo, insomma, cioè quanto eravamo indietro nella costruzione di punti di vista comuni, di dialoghi, di reti culturali all'interno dell'Europa. Vedete, già all'indomani dell'allargamento, già all'indomani del 2004, un intellettuale tedesco come Peter Schneider diceva: guardate che stiamo rischiando di mantenere una cortina di ferro senza il comunismo. Io non vedo attorno a me, diceva Schneider, quel dialogo forte, quell'intenso dialogo fra intellettuali di paesi che si erano combattuti fino al primo momento, che fino a quel momento che avevo visto nel 1945, alla fine della guerra, fra italiani, inglesi, francesi e tedeschi. Ecco, quel fervore oggi non lo vedo. Guardate che rischiamo di mantenere una cortina di ferro senza il comunismo. Senza naturalmente il comunismo, sì. Diciamo, l'89 e l'allargamento del 2004 hanno reso più radicale un problema precedente, naturalmente non nasceva allora, ma certamente l'unificazione di due parti che erano state separate sino ad allora esasperò il problema. Un intellettuale ungherese, Konrad, diceva: guardate, l'Europa occidentale ha vissuto a lungo con le spalle rivolte al muro di Berlino, quindi quell'allargamento imponeva un salto di qualità. Questo salto di qualità non c'è stato. Ce ne accorgemmo poco, ce ne accorgiamo oggi nel momento in cui la crisi europea, cioè, che è dilagata a partire dal 2008, ci pone di fronte a dei nodi molto profondi. Insomma, se penso che in Ungheria, ma anche in Polonia, insomma, i regimi impongono una scrittura nazionalistica della storia, cioè insegnano ai ragazzi una lettura della storia in cui la propria nazione è vittima delle altre nazioni europee, eccetera, mi chiedo che cosa facciamo per contrastare queste visioni, per collegarci anche con gli intellettuali che in quei paesi combattono contro queste visioni, insomma. E mi rendo conto che ci siamo resi conto, insomma, che c'era un ritardo profondo della cultura. Guardi, il testo che è stato mandato, sì, che è stato letto, il testo che è stato mandato con gli autori, con alcuni di essi abbiamo avuto anche delle discussioni sull'impostazione, e lì c'è il cuore del libro, sta tutto lì. Certo. Beh, c'è un tema che è chiaramente politico, economico, le conseguenze dell'allargamento le stiamo verificando anche per effetto della grande crisi, come lei osservava, però quello che più interessa forse è questo approccio di tipo culturale che voi sottolineate nel libro, cioè il problema dell'Europa è anche un problema a questo punto di riconoscimento di un'identità che sembra si stia sfarinando, se vogliamo, no? Sì, e devo dire che sia Angelo Bolafi nei suoi di diversi saggi, in particolare in quello centrale relativo all'89, ma anche ad esempio Giuliano Amato nel saggio che prende avvio dalla Comunità Economica Europea, sottolineano che l'identità europea non è il rapporto fra le differenti, il confronto fra le differenti identità europee, quindi in qualche modo il momento della solidarietà rispetto a quello della contrapposizione non si conquista una volta per tutte, è una conquista continua, è un lavoro di costruzione continua. Ecco, questo abbiamo dimenticato. Mi sembra che il saggio di Amato da questo punto di vista sia un saggio chiave, insomma, del libro. E del resto, appunto, è quello che Habermas ha detto da tempo, insomma, la necessità di costruire un'opinione pubblica europea, e non è possibile costruire un demos europeo se non costruendo una rete continua di reti culturali, umane, dialoghi di memoria, proiezioni nel futuro. Ecco, questo è un lavoro che non si fa una volta per tutte. Certo. È un processo continuo, questo era e da questo punto di vista questo calendario vuole appunto provare a essere un primo piccolo passo, un primo richiamo, insomma, all'urgenza di questo processo. Che è un processo importante, e poi in ogni caso diciamo che questo è un libro che in gran parte tratta del Novecento, anche se poi si parte dalla Dichiarazione dei diritti dell'uomo del 1789, e vengono ripercorse molte delle tappe salienti della storia europea che è passata appunto attraverso due gravi conflitti mondiali e poi alla faticosa integrazione. Lei vede dei fili conduttori in tutto questo percorso? Avete fatto delle scelte, ovviamente. Sì, allora i primi due centrali fili conduttori sono dati dai due primi saggi, cioè dalle due eccezioni. Il libro, certo, nasce, il libro, diciamo, sostanzialmente il titolo stesso lo dice, dalla dissoluzione degli imperi, quindi dalla prima guerra mondiale, dalla dissoluzione degli imperi fino ad oggi. Ma ci sono appunto due premesse non casuali diciamo, la dichiarazione dei diritti dell'uomo e del cittadino, cioè la rivoluzione francese, e la nascita della seconda internazionale, cioè l'idea che i diritti costituzionali e i diritti sociali siano i fili conduttori centrali della costruzione europea. E da questo punto di vista diversi saggi gli si riferiscono, insomma, per quel che riguarda i diritti costituzionali, penso al saggio di Fusaro sulle costituzioni del secondo dopoguerra, ma anche al saggio di Elda Guerra sui diritti delle donne, o al saggio di Mariuccia Salvati sulla costituzione, sui diritti, la dichiarazione dei diritti dell'uomo europei, insomma. Per quel che riguarda i diritti sociali, cominciamo subito segnalando con il saggio di Telò che sul modello scandinavo, che non c'è solo dopo la grande crisi, non c'è solo Roosevelt, c'è anche il modello scandinavo, quel modello di socialdemocrazia che si stabilisce, insomma, a partire dal 32 nella socialdemocrazia. Ecco, questi sono, certo, in qualche modo dei fili. All'interno di questo ci sono la scelta delle date. Le date sono in molti casi segnalano un problema. Ci sono le date, insomma, a scorrere l'indice lo si capisce benissimo, alcune date sono consolidate, ma magari lette in altro modo, cioè naturalmente la voce di Anna Foa, certo, sulla liberazione del campo di Auschwitz, la voce ha come titolo il permanere dell'antisemitismo. E infatti, professore, per questo vorremmo invitare i nostri ascoltatori a leggerlo con attenzione. Noi abbiamo esaurito il nostro tempo, la ringraziamo per essere stato con noi e averci aiutato a entrare meglio nel tema di questo importante libro. Grazie ancora, professore. Grazie a lei. Allora, grazie cari ascoltatori, e grazie ad Alessandro Chiappini in regia e a Luca Cremonese in redazione. Buona serata a tutti.